E allora incredibilmente oggi un pizzichetto in anticipo su questo smooth rabadab skanking. There were times I thought that I was singing, I was singing. Loro sono Unique, questa è My Conversation. Musica in battere e levare dalle West Indies, Jamaica Star. E allora time to be sigla. To be 15:59, aspettiamo ancora una manciata di secondi. Ebbene sì, oggi cominciamo una decina di minuti prima. Tracce di cinema non va in onda, non è andata in onda, e quindi eccoci qua. Non resisto, lo dico. Non resisto, lo dico. Non resisto, lo resisto. E allora la tua rete è sempre sintonizzata sugli 87.9. Questa è Radio Onda Rossa, se non te sbagli. Un segnale che disturba 87.9 nell'aria. Questa è Attica Blues. Allora sono quasi 40 anni che resistiamo liberi e senza padroni. Il telefono è sempre lo stesso, 06 49 17 50, per comunicare con noi, per comunicarci il vostro punto d'ascolto o semplicemente per fare un trillino. Da quest'anno noi di Attica Blues abbiamo pure la pagina Facebook, naturalmente Attica Blues. Allora oggi nuovo giro, nuova corsa. Quest'oggi parleremo dei concerti che si terranno in autunno, giusto? Allora sì, buon pomeriggio a tutti. Oggi parleremo appunto di questi concerti autunnali e invernali che ci saranno a Roma, ma anche nei dintorni. E c'è parecchia roba, eh. If I had the chance to make one decision. Allora io direi di cominciare con un buon duetto. Sì, sì, il primo concerto che è in programma, in cartellone, è proprio il martedì 3 novembre. E loro sono due personaggi, tra l'altro, simili e differenti. E lui è Paolo Fresu, da una parte, che appunto suona la tromba, il flicorno, e dall'altra è Omar Sosa, che è un pianista cubano. E appunto, come dicevano anche loro nella presentazione del disco, sono due isolani e per questo anche molto simili. E appunto saranno in concerto questo martedì per la presentazione di un disco che in realtà poi uscì solo nel 2011, che però da allora stanno portando in giro veramente con molto successo. È veramente una poesia. E allora ci ascoltiamo subito Alma, che è proprio il pezzo che dà il titolo al CD. Smutto. Dunque, questi due grandi artisti, che tra l'altro hanno più o meno la stessa età, sono poco sopra i 50, si conobbero in giro per i festival e fecero subito un trio con Trilokurtu alle percussioni, un indiano. Qui invece che ci ascoltiamo c'è anche l'ausilio di Jacques Morellenbaum al violoncello, e invece martedì saranno proprio in duo. Thank you. Beh, è incredibile come le note si blendino una con l'altra, veramente top. Eh sì, oggi è un inizio delicato. Sì, musica veramente di sensazione, veramente musica per provare emozioni. Beh, io la definisco poesia addirittura proprio. E andiamoci ad ascoltare un altro, perché faremo due pezzi per autore. Sì, sì, sì, non tutti gli autori, però insomma i più importanti ne passeremo due. Ne uno. Sì. E questa è una rivisitazione di un pezzo di Paul Simon, Under African Sky. Già suona d'Africa, eh. E anche Cuba. Thank you. Beh, 7 minuti e rotti The Vibes, col sapore d'Africa che veramente ti entra nelle ossa, nel cuore. Non si può tagliare. No, non si può tagliare. Senti, andiamo avanti. Andiamo avanti con un altro personaggio che verrà la settimana successiva, ossia martedì 10 novembre. Lui è Kamasi Washington ed è uno di quei personaggi adesso sulla cresta dell'onda per quanto riguarda le nuove sonorità jazz. Perché lui intanto è un classe 1981 californiano di Los Angeles e ha iniziato la sua carriera arrangiando e suonando nei pezzi soprattutto di personaggi pop e black come Lauryn Hill, Nas, Snoop Dogg e Kendrick Lamar. E poi nel 2015, a parte che lui ha suonato anche inizialmente con Kenny Barrow, Billy Higgins, Herbie Hancock, quindi insomma aveva un curriculum di tutto rispetto. Sì, e poi uscì proprio nei primi mesi del 2015 con un album addirittura triplo, in cui infatti se l'è scialata, il primo album triplo, già doppio, di solito il primo album non sempre, insomma è un'usanza un po' rara, di solito il primo album è col nome, no? Il nome dell'artista. Beh, infatti l'ha chiamato The Epic, però si è messo in luce anche come compositore, perché riprende sia pezzi suoi che pezzi standard, e ora faremo sentire qualcosa, ma secondo me vale, tra l'altro è la prima volta che viene in Italia, forse anche credo in Europa. Cosa ci sentiamo? Adesso ci sentiamo Leroy e La Niscia. Sì, si allunga la durata dei brani. Comunque già prima con Paolo Fresu e Omar Sosa, di cui ci hanno chiamato per chiedere informazioni, Under Africa Skies, mi raccomando, il pezzo era di Paul Simon, che durava 7 minuti e mezzo, questo ne dura 9 e mezzo. Lui un bel fulminato. Comunque troverete tutte quante le informazioni sul sito, sulla pagina Facebook. Assolutamente, segnatevi tutti i concerti che diremo, però insomma poi li troverete pubblicati penso già da domani. Sì. CD è un bel CD, questo CD triplo, c'è sta una foto sua. È un CD d'altri tempi, direi. Sì. Se riprende un po' anche le sonorità di Pharoah Sanders anni 70. Sì, ma mi riferivo anche al packaging proprio, perché già essendo triplo, comunque un digipack è un bel mamozzo, cioè è un libricino. C'è dentro un bel libro solamente con tutte le informazioni dei musicisti, non c'è una foto dentro. Beh, tutti i testi però ci sono, veramente tutti come i testi, sì. come una volta. La foto sua è bellissima, con i pianeti dietro, con Mega Sax. Sì, ma vi invito anche a vedervelo su YouTube come suona dal vivo lui con queste tuniche, insomma riprende veramente le sonorità. Sì, sembra un santone, qua nella foto sembra proprio un santone con i pianeti dietro, lo sguardo spiritatissimo. In realtà poi non è tutto bello questo disco, perché secondo me è troppo carico in alcuni pezzi, ci sono anche archi, ci sono delle orchestre sotto, però si vede che è un lavoro pensato, strutturato. Comunque. E... sì. Sare diciamo. Scialata come dicevamo prima. Parlavamo di testi sul libretto, andiamoci ad ascoltare un brano cantato a questo punto. Sì, questo è uno standard appunto rivisitato da Kamasi Washington e Cherokee, già da Charlie Parker in poi diventò uno standard famosissimo nella storia del jazz, e qui appunto è coadiuvato dalla voce di Patrice Quinn. Thank you. can't forget you, Cherokee sweetheart. Salutiamo Marianna che ci sta ascoltando mentre scrive la sua tesi con le sue cuffiette. My heart am throwing Cherokee. E dunque l'appuntamento è con lei e con Kamasi Washington appunto il 10 novembre e questo secondo me è un concerto che va assolutamente visto. Sì, lui marca proprio personaggione. Sì. Allora salutiamo pure Paolo Airi che ci ha chiamato. Bless up. Possiamo dire che è un mese carico quello di novembre di appuntamenti imperdibili. Sì, già questi sono due appuntamenti di martedì, quindi due appuntamenti infrasettimanale più gestibili, diciamo, dal punto di vista delle punte. E invece l'ultimo weekend di novembre ci sarà appunto al The Frag un altro personaggio della scena dub. E lui è appunto Dennis Bowell, già bassista di Linton Kwesi Johnson. Lui è un personaggio abbastanza grande perché c'ha 62 anni. Un omone. Delle Barbados. Partiamo subito con questa Biffy Chuon. Pula. Mi avete convinto, la rimanno, va. Dennis Bowell, Biffy Chuon.

Tra l'altro questa data si inserisce all'interno di un tour proprio per una ricorrenza. Eh sì, sono già ben 40 anni di attività. 40, regà, 40 anni di attività, quasi quanto questa piccola grande radio. Andiamo per i 38, sì. E quindi Dennis Bowie gira l'Europa. Ricordiamo la data, che è proprio il 27 novembre. Rolling down the river, my God, I'm step, step, step, step, stepping up. Vabbè, passiamo al prossimo della lista. E dunque, il prossimo della lista è Gregory Porter, che aprirà il Roma Jazz Festival, che è arrivato alla 39esima edizione e si terrà appunto a Roma dal 14 novembre al 29 novembre. E lui è un personaggio, pure lui, un personaggio importante, anche se poi è uscito tardi, è uscito solo in questi ultimi anni e ha pubblicato solo 3 dischi, e però già dal secondo, Be Good, è passato alla Blue Note e quindi ha cominciato a farsi valere, a farsi conoscere, e effettivamente adesso comincia a fare tutto esaurito pure lui, eh. 1960, what? E questo è proprio un primo brano dal suo primo disco Water del 2010. Who? 1960 what? 1960 who? 19... Hey! The Motor City is burning. That ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19... Hey! The Motor City is burning, y'all. That ain't right. Of a people standing on the balcony of the Lorraine Motel. Shots rang out. Yes, it was a gun. He was the only one to fall down, y'all. That ain't right. Then his people scream. Ain't no need for sunlight. Ain't no need for moonlight. Ain't no need for street light. 'Cause it's burning real bright. Some folks say we gon' fight. 'Cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City is burning, y'all. Great God Almighty, the Motor City is burning. a black licorice in his hand, y'all. Mr. Policeman thought it was a gun, thought it was a one, shot him down, y'all. That ain't right. Then his mama screamed, ain't no need for sunlight, ain't no need for moonlight, ain't no need for street lights, it's just burning real bright. Some folks say we gon' fight, 'cause this here thing just ain't right. 1960 what? 1960 who? 1960 what? 1960 who? 19. Hey, the Motor City's burning. Great God Almighty is, great God Almighty is burning. You can't put out the fire 'cause it's burning. Beh, dopo un po' di personaggi da in giro per il mondo, ritorniamo a annunciare un personaggio italiano. Sì, lui è Mauro Ottolini e chiuderà appunto il Roma Jazz Festival il 29 novembre. E adesso ci ascoltiamo un pezzo suo, lui verrà con i Sauphonics, che è un progetto suo che rifà musica anni 30, che non è male, devo dire. Però in realtà ci ascoltiamo un pezzo adesso da un disco fatto con Frank Lesi. Frank Lesi era un trombettista americano di cui poi si erano perse pure le tracce. Sai, questi personaggi che girano per il mondo. Cioè, era scomparso praticamente. Era scomparso. Senza parenti. Senza notizie proprio di Frank Lesi. E lui lo incontrò alla stazione di Reggio Emilia, lo vide al binario. Gli ha detto: ma dove vai? Perso, cioè lo vedi perso al binario così. Completamente perso, e lo ospitò a casa sua per il weekend a Verona. E in questo weekend decisero di incidere appunto questo disco. Che però poi Frank Lesi ripartì e lui non ebbe modo di fargli avere queste tracce. Che poi gli ha lasciato un contatto che dopo un po' non esisteva più. E non è più riuscito a mettersi in contatto con lui. Però venne fuori veramente un disco arrangiato così, riarrangiato alla buona, però che suona veramente, veramente bene. Un disco corto, tra l'altro. Corto, perché saranno 36 minuti di musica. Incisione, vabbè, il tempo di un weekend. Però è musica veramente tutto cuore. Like you do, do, do. How come you do me like you do? Why do you try to make me feel so blue? I ain't done nothing to you. Do me right or else just let me be. You're doing what you're doing to me. How come you do me like you do, do, do? How come you do me like you do? comunque un bel incontro, diciamo, alla stazione di Verona, eh? Eh sì, hanno fatto pure musica ad altri tempi, con questo intreccio fra il trombone di Mauro Tolini, la tromba di Frank Lesi e anche la voce. Diciamo che Mauro Tolini è andato a gallo, è andato veramente gallo. È andato di lusso pure. Beh, un CD carino, anche questa, la copertina è carina, con due mezze suore, cosa sono? Sì, sono delle suore, un trombone. Sì, un trombone, sì, buffo, sembra fatto di porcellana, comunque effettato di bianco con un po' di metallo. Vabbè. E questo è proprio il suo trombone, perché lui c'ha un trombone tutto particolare. Ah, vedi, allora questo è il mondo. Sì, è caratteristico. E adesso passiamo a un altro che sarà poi la star, evidentemente, del Roma Jazz Festival. Lui è Avishai Cohen ed è un contrabbassista e bassista di origine israeliana. Eppure qui la storia è anche abbastanza interessante da raccontare, perché lui a 18 anni si trasferì appunto da Israele a New York e per guadagnarsi da vivere andò a suonare nei parchi e per le strade di New York, dove venne notato poi da Chick Corea e iniziò un lungo sodalizio dal 96 al 2003 che lo portò appunto alla ribalta e arrivò a suonare con Herbie Hancock, con Roy Hargrove, con Bobby McFerrin, e adesso qui è con un suo trio e questa che ci andiamo ad ascoltare è Remembering. Bene, allora sono le 5.05 qua a Via De Volci, San Lorenzo, questa è Radio Onda Rossa, la vostra radiolina è sempre sintonizzata sugli 87.9, non te sbagli. Io direi che mandiamo un'ultima traccia e poi passiamo la palla alla Schiena del Sol che scalpita, tra l'altro ci sono ospiti oggi, quindi rimanete sintonizzati, intanto ci andiamo ad ascoltare. Sì, chiudiamo con Steve Wilson al sax contralto e Lewis Nash alla batteria, e questo duo sarà protagonista dell'edizione invernale di Umbria Jazz che si terrà a Orvieto come di consueto dal 30 dicembre al 3 gennaio. Tra l'altro questo disco è proprio registrato a Umbria Jazz, o mi sbaglio? E io c'ero, veramente un concertone. Vabbè, non lo voglio sapere, hai pagato il biglietto? No, assolutamente, cioè, no. Non lo voglio sapere, andiamoci ad ascoltare. E questo è un pezzo che si chiama Con Alma ed è proprio di Ziggy Gillespie. Questo, come vi diciamo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento giovedì prossimo, che parleremo di jazz e Africa ancora. Riusciremo a farla questa. Ma sì che la facciamo, sì che la facciamo. Eh sì, dai. E allora rimanete sintonizzati, che la Schiena c'ha ospiti, dai. Thank you.